24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Paola Nani all'appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi ci occuperemo degli scontri e delle polemiche intorno all'alta velocità Torino-Lione, i cui cantieri esplorativi dovrebbero aprire in questi giorni, ma che viene duramente contestata dal movimento No TAV. Ci sono stati scontri e feriti in Val di Susa, poi disordini anche in altre città come Torino e Roma. L'Unione Europea chiede che i cantieri aprano subito per concedere i finanziamenti che altrimenti andrebbero perduti. Parleremo anche delle turbolenze in borsa, delle ipotesi per salvare la Grecia dalla bancarotta e di una sentenza della Corte dei diritti dell'uomo sulla fecondazione assistita. E partiamo proprio dalla giornata dei No TAV in Val di Susa, in Piemonte. Proteste non solo in Piemonte, ma anche in altre città, tra cui Torino e Roma, dove i manifestanti hanno occupato Via del Corso. In Val di Susa, invece, il numero dei feriti tra lievi e contusi è salito a un'ottantina tra forze dell'ordine e manifestanti. Questo è l'ultimo bilancio. L'area di Maddalena di Chiomonte è stata alla fine consegnata dalla polizia alla ditta appaltatrice. Ma facciamo il punto nel servizio. Il blitz scatta pochi minuti prima delle 8 di mattina. Dopo un lancio di lacrimogeni, gli uomini delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa con una ruspa fanno breccia nelle barricate allestite dai No TAV nel cantiere della Maddalena. I manifestanti si oppongono con lanci di petardi e sassi, ma lo scontro è impari. Gli agenti arrivati in Val di Susa per sgomberarli sono più di 2.000. I No TAV sono costretti a darsi alla fuga nei boschi circostanti. Alcuni di loro bloccano la statale, altri l'autostrada per la Francia, ma la loro battaglia è persa. Alle 11 di mattina il cantiere dell'alta velocità viene consegnato alla ditta che dovrà effettuare i lavori. Bilancio degli scontri, una quarantina di feriti fra le forze dell'ordine, uno in modo serio, altre tanti fra i No TAV. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Unione Europea intanto ricorda che per non perdere i fondi destinati alla tratta Torino-Lione sono necessari entro il 30 giugno anche un nuovo progetto preliminare e un accordo intergovernativo tra Francia e Italia. E proprio sugli incidenti in Val di Susa si è espresso il vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani. Mi sembra sbagliato cercare di bloccare dei lavori che non danneggiano il territorio, perché c'è stata tutta una consultazione previa, una serie di incontri. Perdere più di 600 milioni di finanziamenti comunitari sarebbe un errore madornale. Sono un volano per la realizzazione di un'opera infrastrutturale importantissima. Adesso la pagina economica. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha confermato che il governo e le banche francesi proporranno un nuovo piano che prevede la partecipazione dei creditori privati della Grecia al salvataggio del paese e ha detto di sperare che il piano venga adottato dall'Unione Europea. Nuovo record per il premio di rendimento pagato dai titoli decennali italiani rispetto al Bund tedesco. Lo spread ha raggiunto i 222 punti base, più 8 punti rispetto a venerdì. Ma Piazza Affari non ha reagito male con i titoli bancari in ripresa, sentiamo. Dopo la paura respirata venerdì scorso sui mercati, per Piazza Affari è stato un avvio di settimana tranquillo. I titoli bancari, duramente colpiti alla vigilia, hanno riguadagnato parte delle posizioni perse, spingendo al rialzo sia il FTSE MIB più 0,75% sia il FTSE All Share più 0,61%. Bene in particolare BPM più 3,47%, che rimbalza dopo le recenti debacle, nonostante sabato l'Assemblea abbia bocciato l'aumento delle deleghe chiesto dalla Banca d'Italia. Fra gli altri istituti, Intesa San Paolo ha guadagnato l'1,17% e Unicredit lo 0,51%. Ancora pesante, invece, Monte dei Paschi di Siena, meno 3,75%, che rimane sotto stress nel periodo di aumento di capitale. Le ricapitalizzazioni pesano anche sulla Galassia Ligresti. Nel primo giorno di aumento di capitale, Fonsai ha perso un altro 9,22% e Milano Assicurazioni è arretrata del 3,93%. Da segnalare, infine, il più 2,01% di Fiat, che ha stretto un accordo con Suzuki per fornire al costruttore giapponese i suoi motori diesel 1006. Guido Maurino, da Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca: la Germania ha annunciato un nuovo decesso legato al batterio killer delle Escherichia coli, che fa salire così il bilancio dei morti in Europa a 47, 46 in Germania, 1 in Svezia. Fecondazione artificiale, la Corte dei diritti dell'uomo accoglie il ricorso di una coppia italiana contro la legge italiana numero 40. Rosetta Costa e Walter Pavan sono entrambi malati di fibrosi cistica, una malattia genetica che si trasmette in un caso su quattro al nascituro. Vorrebbero ricorrere alla procreazione in vitro per poter selezionare un embrione sano, ma la legge italiana non lo permette. La legge 40 consente infatti la fecondazione artificiale solo alle coppie sterili o a quelle in cui il partner maschile abbia una malattia sessualmente trasmissibile come l'AIDS. Così decidono di rivolgersi alla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, sostenendo che la legge 40 viola il loro diritto alla vita privata e familiare e quello a non essere discriminati rispetto ad altre coppie, diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte ha accolto il ricorso, sottolineando come lo screening embrionale sia già possibile in 15 paesi europei, fra cui Francia, Spagna e Gran Bretagna. Come sempre in questi casi, i pareri sono discordi. Plaudi alla decisione di Strasburgo Filomena Gallo, vice segretaria dell'Associazione Luca Coscioni. Critica Eugenia Roccella, sottosegretario alla Salute, che dice no alla selezione genetica degli embrioni e sottolinea inoltre che il ricorso non è stato accolto, ma solo dichiarato ammissibile. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Trovare fondi per produrre opere cinematografiche è sempre molto difficile. Per questo Lombardia Film Commission, in collaborazione con l'Associazione Produttori Indipendenti della Lombardia, ospita oggi a Milano la presentazione del Media Production Guarantee Fund, un fondo di garanzia europeo alla produzione audiovisiva per facilitare il sostegno economico a piccole e medie imprese. Il presidente di Lombardia Film Commission, Alberto Contri, al microfono di Paolo Panceri. Realizziamo questa giornata di aggiornamento grazie alla quale i produttori dovrebbero poter accedere con le tecnicalità migliori a questi bandi europei con dei finanziamenti anche significativi per i quali le banche, che sono gli altri invitati alla manifestazione, dovranno poi dare una mano concreta per intervenire come operatori. L'Agenzia Europea per l'Ambiente lancia l'allarme ozono, situazione critica soprattutto nei paesi mediterranei. Un mix di temperature elevate, mancanza di vento, emissioni da traffico di terra e aereo, scarichi delle centrali di produzione energetica. Così le città europee si trovano nella morsa dell'ozono. Si forma per la combinazione di altri gas come monossido di carbonio, metano, azoto e causa nel continente malattie respiratorie anche gravi che, nel caso degli anziani, possono portare a decessi prematuri, 21.000 quelli registrati nel 2010. A lanciare l'allarme l'Agenzia Europea per l'Ambiente, che riporta sforamenti in tutti gli stati dell'Unione. Ma, complice il caldo, sono i paesi mediterranei a soffrirne di più. La maglia nera va proprio all'Italia, in particolare a Lombardia, Piemonte e Veneto. Ma valori alti si segnalano anche in alcune città del centro-sud, come Perugia, Terni e Siracusa. Giugno e luglio, i mesi più a rischio per bambini, anziani e soggetti asmatici, negli orari più caldi, meglio evitare l'attività fisica e stare poco all'aria aperta. Giuseppe Asta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Rinforza le difese immunitarie e rallenta l'invecchiamento delle cellule. Sono solo due degli slogan stampati sulle etichette di alcuni cibi che, in virtù di alcuni ingredienti, promettono benefici per la salute. Sul fenomeno ha voluto vederci chiaro l'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che ha analizzato migliaia di queste diciture. Le anticipazioni parlano di una bocciatura di massa, come conferma Silvia Valtuegna Martinez, esperto scientifico dell'unità nutrizione dell'EFSA, intervistata da Maria Luisa Pezzali nella trasmissione Essere Avere. Questo trend generale è così, però penso che sia il caso di fare anche una piccola precisazione, perché per sostanze o principi attivi quali le vitamine, certe fibre, acidi grassi per esempio, su cui la funzione benefica era già nota, sono stati valutati positivamente perché le conoscenze scientifiche erano adeguate. Però per la maggioranza dei claim su principi attivi o di più recente scoperta o con effetti benefici non così ben studiati, non era possibile per gli esperti dell'EFSA determinare il fondamento scientifico. Per esempio potrei citare i cosiddetti probiotici, i microrganismi dei prodotti lattici per esempio. La stessa cosa è successo per i claim sugli antiossidanti per esempio. Ed era questa la nostra ultima notizia, 24 ore in Europa si ferma qui, grazie in regia a Mauro De Angeli, un saluto da Paola Nania. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.